sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo lunedì 16 di febbraio alle 16.30, primi 30 secondi, quindi diretta dagli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per segnalare temi, ospiti, critiche, richieste di modifiche, correzioni, quello che volete. Allora, andiamo al tema del giorno per sollecitarvi a darci la vostra opinione. Ricordo 800240024, numero di telefono, 349-238-6666 per gli sms. Lo so, ci sono importanti vicende internazionali dopo i fatti danesi, dopo le parole di componenti del governo rispetto alla crisi che precipita in Libia. È in corso l'Eurogruppo sulla crisi greca, da cui vediamo che cosa esce stasera, anche se io scommetto, vediamo se perdo sul fatto che ad Atene verrà dato altro tempo e che non gli si opporranno mura sì, no, vediamo. Questa è la posizione in cui si è entrati nell'Eurogruppo con una dichiarazione del ministro Sapè in francese, con molti altri ministri di euromembri favorevoli sostanzialmente a dare ancora tempo ad Atene per vedere di formulare un quadro preciso di proposte su cui fare un nuovo memorandum d'intesa con Atene. È in corso ancora la fragile tregua, che tregua non si è rivelata in Ucraina, ma detto tutto questo, poiché si tratta di vicende tragiche, preoccupanti, ma rispetto alle quali bisogna ancora attendere, inciso, è per fortuna che il governo italiano ha fatto marcia indietro ieri dopo le dichiarazioni belliche di sabato nei confronti della Libia, che mi avevano lasciato senza parole, visto che l'esperienza ci insegna le vicende del 2011 in cui fummo travolti da Gran Bretagna e Francia sulla vicenda libica, ci dovrebbe insegnare a essere decisi sì a promuovere noi iniziative, ma la credibilità, se diciamo che noi iniziamo a intraprendere da solo un'azione bellica, era zero. Per fortuna che il governo poi ha fatto un sano bagno di realismo e ha fatto marcia indietro. Però il tema di cui parliamo oggi è un tema classico, per così dire, perché riguarda le imposte, perché ci sono i dati complessivi del contenzioso tributario nel nostro paese e io, a dire la verità, li considero un pezzo fondamentale che spiega l'anomalia del fisco nel nostro paese e gli effetti che induce sui contribuenti a non fidarsi di questo Stato, delle sue procedure, del suo contenzioso in cui non si vede garantito dei diritti elementari, come quelli della parità tra le parti in giudizio, in cui gli si chiede di mettere una parte fissa di quello che lo Stato gli chiede per il solo fatto di aprire il contenzioso con lo Stato, cosa che non succede in nessun altro ordinamento, in cui si trova a essere giudicato da un giudice che dipende dalla stessa amministrazione, che viene pagato dalla stessa amministrazione alla quale appartiene colui che lo indaga, cioè l'Agenzia delle Entrate, e così via. Ma al di là di tutte queste caratteristiche sistemiche, vi chiedo di telefonare per darci una vostra esperienza del contenzioso fiscale. Avete visto in questi anni modifiche, miglioramenti? Siete incappati in una pronuncia o in un contenzioso risolto in una maniera che vi ha sorpreso positivamente? O la vostra esperienza invece è di un progressivo slittamento dal male al peggio? È una domanda per avere la vostra opinione. Andiamo a vedere i numeri e poi vi presento immediatamente l'ospite. per commentarlo. Troverete pagine intere di dati sul Sole 24 Ore del lunedì di oggi, che apre esattamente su questo tema. Noi abbiamo a fine 2014 nel nostro paese pendenti la bellezza di 570.000 cause tributarie, e l'ammontare complessivo delle lite tributarie nel nostro paese è di 52 miliardi di euro, quindi stiamo parlando di più di 3 punti di PIL. Da una parte uno potrebbe credere, eccoci qua, la conferma del fatto che in Italia c'è l'evasione di massa, e immagino che molti giustizialisti convinti, perdonate se uso questo aggettivo, sapete che io ho un punto di vista diverso, ma molti di coloro, ritiro l'aggettivo, che sono convinti che nel nostro paese ci sia una atavica propensione insita nel DNA a evadere le tasse, magari da questi numeri avranno la conferma che si tratta appunto di un fenomeno di massa. Ma tuttavia, se andiamo a vedere le caratteristiche di questo contenzioso, che non è detto debbano avere tutti chiari in mente, e cioè che si tratta di procedimenti che possono arrivare fino a 8 anni di durata, fino alla Corte di Cassazione, da una parte, e se andiamo a vedere poi i dati in dettaglio, dove sono pendenti e per quale ammontare medio queste 570.000 cause, a mio giudizio troviamo delle prove conclamate del fatto che è per come è organizzato che il contenzioso fiscale ottiene questo effetto di massa e induce a uno scoraggiamento, un abbattimento di fiducia da parte di chi? Degli evasori? No, dei contribuenti onesti che ritengono di avere ben interpretato attraverso i loro professionisti al 99% dei casi le basi imponibili da applicare, di avere ben calcolato il reddito realizzato sul quale applicare gli imponibili e di avere ben evaso in maniera corretta e coscienziosa il proprio obbligo fiscale, come è giusto, anche se le tasse che ci chiedono sono troppe, e di fronte a contestazioni provino a quel punto a far valere le proprie ragioni. E voi capite che però se per astendere le proprie ragioni passano 8 anni e così via, ecco che c'è questo imbottigliamento di massa, che poi naturalmente fa dire allo Stato che è in attesa di punti di PIL di evasione da incassare, ma qui non stiamo parlando di evasione. Allora, in realtà il più di questi 570.000 casi pendenti non riguarda ammontari rilevanti, assolutamente no, ecco, perché in realtà solo 12-13.000 hanno a che fare con valori superiori a 250.000 euro, quindi non stiamo parlando neanche di milioni, 250.000 euro, 13.000 hanno a che fare con valori significativi, ma per il resto stiamo parlando di un contenzioso di massa che rivela, secondo me, le procedure attraverso le quali si elevano le contestazioni, ripeto, di massa nei confronti dei contribuenti del nostro paese. Ecco, quindi per capirci, le controversie di valore fino a 20.000 euro sono più di 345.000, ecco, ma pesano meno di un miliardo sul totale dei 52 miliardi. Ci sarà qualche cosa che non funziona e da cambiare profondamente, quindi mi chiedo io, di fronte all'analisi di questi dati, che come vedete ci consente, forse sbagliamo, ma almeno dal mio punto di vista, di credere che la stragrande maggioranza dei contribuenti italiani non ha, ripeto, non ha milioni nascosti, né tantomeno tenta di nasconderli, ma siamo invece in presenza di un sistema di contenzioso che mette sullo stesso piano contestazioni formali rispetto a poche migliaia di contestazioni su grande ammontare, e anche quelle naturalmente da verificare se poi alla fine siano fondate o meno. Pur tuttavia, prima di presentarvi l'ospite, vi leggo qualche considerazione che questa mattina il professor Enrico De Mita, uno degli storici appunto di riferimento del diritto tributario italiano, ha scritto a proposito di questi dati che non sono interessati dalla delega fiscale, che ve lo ricordo è stata protratta per l'ennesima volta pochi giorni fa fino a maggio, e quindi noi dovremo ancora attendere, una volta che poi ci siano anche i decreti attuativi, la fine dell'anno, se va bene, a vedere le semplificazioni che pure erano positive, attese dalla delega fiscale. E non mi riferisco qui, come sapete, alla franchigia del 3% depenalizzante le frodi fiscali, alla quale ero e resto contrario, ma mi riferisco per esempio alla nuova definizione dell'abuso di diritto e così via. Ma siccome l'hanno protratta ulteriormente, il professor Enrico De Mita così scrive questa mattina. Eccoci qua. Il governo, scrive, non ha ancora esplicitato le proprie linee di politica tributaria. A volte si ha la sensazione che a determinarne la direzione sia più l'amministrazione finanziaria che non l'esecutivo. Le cronache che sui lavori tecnici per l'attuazione della delega raccontano di un ruolo attivo dell'Agenzia delle Entrate, il che trova una spiegazione nel fatto che l'amministrazione sarà il soggetto che queste norme dovrà far rispettare. Però non ci siamo, scrive il professor De Mita, perché l'agenzia per sua natura ha solo il compito di applicare le leggi fatte su indirizzo del governo, altrimenti si crea un evidente conflitto di interessi. Si finisce per alimentare il sospetto di un'amministrazione tributaria che scrive norme pro domo sua, ad esempio per dare copertura, anche ex post con norme interpretative, al proprio operato. Insomma, la sensazione è che la legislazione, specie quella fiscale, sia caratterizzata dall'assenza di strategia e da una confusione dei ruoli. E la parte amministrativa che deve applicare la legge a scrivere la legge tributaria nel nostro paese, e non mi sembrano considerazioni di ordine secondario e poco importanti. Allora, per capire però chiediamo a un tecnico vero, un commercialista coi controfiocchi, è stato presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti e dei Dottori Contabili, Claudio Siciliotti. Buon pomeriggio e grazie a Claudio Siciliotti di essere con noi. A lei e a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, da questi dati sul contenzioso, lei, nella sua esperienza pluridecennale, che cosa ricava, che impressione ha? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che la cifra di per sé è impressionante. L'ha già ricordato lei, 52 miliardi di liti pendenti, oltre 3 punti di PIL, ma se noi consideriamo che il contribuente ha mediamente ragione per circa il 60% dei casi, l'Agenzia delle Entrate contesta questi dati, però si riferisce alle situazioni in cui ha parzialmente ragione e le attribuisce a se stesso, e si riferisce alle situazioni dove sono il contribuente perde per vizi procedurali e non perché ha ragione o torto nel merito, ma quando si tratta di correttezza della pretesa tributaria i contribuenti hanno ragione al 60%, e questo va detto. Quindi questi 52 miliardi dividiamoli per metà, semplicemente metà di questi non sono dovuti, allora metà di questi costituiscono una robusta finanziaria e metà di questi costituiscono al tempo stesso un peso insopportabile per l'economia onesta. Questo ci dobbiamo dire, perché è pazzesco immaginare che l'economia di questo paese possa essere gravata di altri 25 miliardi in itinere che non sono dovuti. E allora forse più che gli aggiustamenti del contenzioso tributario, si parla di giudice unico, si parla di maggiorare le soglie di autodifesa, di processo telematico, eccetera, io credo che bisogna risolvere il problema a monte. Ci vuole un fisco più semplice, con meno presunzioni e più controlli, e forse l'occasione della riforma tributaria deve essere utilizzata anche per questo. E poi forse ci vuole una mediazione vera, affidata ad un soggetto terzo, magari ampliata. Noi oggi assistiamo a una mediazione in cui l'Agenzia delle Entrate è mediatrice di se stessa. perché il contribuente deve andare a chiedere e l'Agenzia delle Entrate che ha emesso quell'atto dovrebbe rimodificarlo sulla base delle istanze del contribuente, ma non funziona così in nessuna parte del mondo. Ha ragione il professor De Mita quando contesta un ruolo attivo nella produzione normativa dell'Agenzia delle Entrate. È sempre stato così. L'Agenzia delle Entrate scrive le norme, diciamocelo con chiarezza. Avviene sempre questo e spesso lo fa per proteggersi e per proteggere anche le cose sbagliate che ha fatto in passato. Io credo, in buona sostanza, che ci voglia una profonda riflessione sulla riforma del sistema fiscale. Noi aspettiamo una riforma vera da oltre 40 anni e 40 anni fa c'era un altro mondo, c'è un'altra economia, l'economia locale, non esisteva l'euro, non esisteva internet e con essa tutto il grande bacino delle transazioni online, non esistevano i flussi migratori, perlomeno nella misura e nella dimensione in cui esistono oggi. La stessa globalizzazione, come dire, era una visione di poche menti prospettiche, eppure il nostro sistema fiscale è rimasto sostanzialmente quello di quella volta, con tanti aggiustamenti, ma non ridiscusso nelle sue fondamenta, e io credo che di questo oggi avremo bisogno. La delega fiscale è partita da Berlusconi, è finita a Monti, è rimbalzata su Letta, se l'è ritrovata Renzi, ma oggi di che cosa parliamo parlando di riforma fiscale? Di aggiustamenti di singoli istituti già esistenti. Non discutiamo di una revisione complessiva dei presupposti. Io credo che di questo oggi dovremmo parlare e penso che dovremmo parlare di un fisco che sia un reale fattore di sviluppo, invece che quella zavorra insostenibile che è diventata in questi ultimi anni, un fisco che sia di aiuto e non di peso all'economia, con un prelievo che sia destinato a coprire esclusivamente la spesa pubblica indispensabile e utile, perché ogni euro in più prelevato finanzia una spesa improduttiva e le permette di essere tale e alimenta la sfiducia del contribuente. E non si può continuare con una lotta all'evasione fatta di decreti e misure contro gli sprechi fatta di disegni di legge, perché è evidente che la velocità è del tutto diversa. Abbiamo bisogno di un fisco che favorisca la produzione e il lavoro, e mi permetto di dirlo, non sia considerato un'opinione di parte, ma io credo che il centro oggi che deve essere sgravato di imposizione è il lavoro autonomo. Certo. E questo è il punto, perché bisogna liberare le locomotive, non i vagoni. Allora tutte queste norme, l'IRAP che non è stata affatto tagliata come era nelle aspettative della maggioranza dei contribuenti che producono e fanno impresa, lo scandaloso regime dei minimi, lo split payment che è una sciocchezza colossale, la inguardabile sulla Robin Tax, lo scandalo del 3%, tutte queste cose. Allora c'è bisogno di una ridiscussione fondamentale. Poi la lotta all'evasione, è vero, meccanismi di pagamento tracciabili, ma non penalizzando chi non li utilizza, magari premiando chi lo fa. Esatto, incentivi e non disincentivi, su questo sono molto d'accordo. Funziona così, esatto. Perché l'obiettivo di fondo, io l'ho detto e l'ho scritto tante volte, deve essere un fisco leggero con sanzioni pesanti. Ok, ci fermiamo per 60 secondi, strada e torniamo. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, stiamo parlando dei dati consuntivi del contenzioso tributario 2014 con liti aperte per 52 miliardi, no, non sono comprese anche le sanzioni e gli interessi e l'ammontare delle contestazioni che è di 52 miliardi e sono 570 mila le cause pendenti. Sentiamo alcuni ascoltatori e poi torniamo al nostro ospite Claudio Succitotti, al quale ho anche una domanda da fare. Cominciamo con Claudia che ci chiama da Pavia. Prego Claudia. Sì, buonasera. Io volevo appunto testimoniare del caso che ha riguardato la società per la quale lavoravo. Nel 2008, si tratta di una società nel settore edilizio, e nel 2008 si è presentata all'Agenzia delle Entrate per un controllo generico, diciamo, e hanno rilevato, secondo loro, che per un intervento che avevamo fatto, non mi ricordo neanche più dove, a Cormano, credo, e anni prima, tra l'altro, che entrasse la legge, si sono inventati, a presente quei dati che l'Agenzia delle Entrate aveva deciso che dovessero valere gli immobili in una certa zona e così via, ok? Per farla breve, in ogni caso, hanno detto che su un valore di qualcosa che valeva 5 milioni di euro più o meno, si sono arrampicati sui muri per dire che noi, insomma, avevamo preso in nero qualcosa come 700 mila euro. Ok, una bella sommessa. Siete andati in contenzioso e cosa è accaduto? Siamo andati in contenzioso, quindi succedeva nel 2008, contenzioso, primo grado, abbiamo vinto, hanno fatto ricorso, secondo grado, abbiamo ancora vinto, hanno avuto il coraggio di andare in Cassazione. E adesso si sta aspettando la Cassazione. E siete in attesa. Intanto, ovviamente, la società ha dovuto sperperare tanti bei quattrini, avvocati, eccetera, e tutto quanto. E poi, naturalmente, in ogni caso, quando arriva la sentenza, spese condivise. Sì, sì, io ritengo veramente una cosa abominevole. Questo già molti ascoltatori che evidentemente hanno esperienza hanno mandato sms dicendo la cosa delle spese condivise quando perde lo Stato è una cosa abbastanza insopportabile. Sentiamo Angelo da Roma. Angelo, prego. Allora, io sono un ex giudice della commissione tributarie, sì, e ho ascoltato il bel discorso precedente e in gran parte lo condivido. Però per fare tutto quello che è stato detto ci vogliono anni, e qui invece il numero delle pendenze non è rilevante come sembra, a parte le somme, ma rispetto al contenzioso generale in Italia sono milioni, ma la gran parte di quel contenzioso è dovuto agli accertamenti fatti male. Sì. In primis mi dispiace dirlo, sono degli amici della Guardia di Finanza che fanno accertamenti più o meno gambati in aria. E allora quando arriva la commissione, quello che ha detto la signora precedente, deriva proprio da un accertamento fatto così. L'amministrazione è obbligata a ricorrere in appello, specialmente quando ha torto, ma questo succede anche nel contenzioso civile. Quindi il contenzioso tributario, prima di tutto, devono mettere i giudici a tempo pieno e non prendendoli tra i commercialisti e tra i magistrati che sono già operati di loro modo di lavoro, e quindi se i giudici non sono in grado di lavorare professionalmente addetti a quel lavoro, il contenzioso rimarrà pendente per anni. Allora, grazie Angelo, perché con la sua a parte le sue considerazioni su come sono fatti gli accertamenti, io era questa la domanda che volevo fare a Claudio Siciliotti. Visto che sappiamo da anni e da anni questioniamo con l'Agenzia delle Entrate che ha una scala di remunerazioni per criteri di produttività fatta con obiettivi territoriali di accertamenti, è fatta maggiore è la stima dell'accertato, più scattano i premi ai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate Territoriale. Perché non pensare al fatto che di fronte al fatto che il 60% del contenzioso finisce a favore del contribuente, come ci ricordava lei Claudio Siciliotti, basta, e questa non è una riforma da far passare in Parlamento, basta modificare la struttura degli incentivi ad agentrate, per cui quando l'accertamento, come ci diceva l'ex giudice tributario, è fatto coi piedi e lo Stato perde, e stiamo parlando però di metà dei casi, allora in quel caso deve scattare un disincentivo, una penalizzazione per l'amministrazione tributaria. Perché è impensabile, Siciliotti, una cosa simile? No, non è impensabile. La degenerazione del problema è proprio che se esistono questi incentivi, il funzionario è spinto a trovare più che a cercare l'evasione. E io credo che il tema sia proprio lì. Io penso che dovremmo fare, invece che obiettivi indifferenziati, devi recuperarmi X milioni o miliardi di imponibile, il problema è fare degli obiettivi selettivi per categorie di reddito, perché se no si va a finire che pur di trovare in ogni modo si va a cercare anche quello che non c'è. E la seconda cosa che andrebbe considerato sugli incentivi è considerare il differenziale tra accertato e riscosso. Perché esatto. È facile fare accertamento, è molto più difficile con questi dati che abbiamo appena commentato, poi alla fine del percorso riscuotere un euro di quello che si è accertato. Quindi si viene premiati sull'accertato, ma non si viene bastonati come si dovrebbe se poi il riscosso è molto inferiore. Cari ascoltatori, voi capite che quello che poi vi ammanniscono per dire che siamo tutti evasori è esattamente la stima gonfiata dell'accertato, non quello che risulta al netto poi del contenzioso. Un'altra maniera per metterci nella zucca che siamo tutti evasori genetici, per così dire. Sentiamo ancora Francesco da Trieste. Prego Francesco. Sì, buonasera. Io porto il mio esempio, ne ho due, uno positivo e uno negativo. Uno positivo su una società che parte in modo negativo perché l'approccio è sempre quello che tu stai rubando. E uno negativo perché è venuto a mancare mio padre a distanza di 2 anni, mi arriva una cartella molto corposa da oltre 560.000 euro che era oltre, come posso dire io, per tutta la successione ho pagato molto meno della metà di quell'importo e... per un coefficiente sbagliato, quindi abbiamo messo la colpa in autotutela, che è il primo passaggio di difesa, proprio perché quel coefficiente non cambiava da una decina d'anni e su un immobile pesato di usufrutto, in quell'anno era cambiato. Premetto che tutta la mia successione è stata data in mano a uno studio di commercialisti. Come ovvio, immagino, certo. E ad un avvocato. Comunque avete ammesso in autotutela l'errore del coefficiente. Sì. Non è stata accettata l'autotutela, si è passati ad essere comunque presi di mezzo come volenterosi di evadere, certo. Per cui il gioco cambia, tu non paghi più la successione per i tuoi, come posso dire, per come tu devi eredare una successione, cioè io quando uno eredita un immobile... Bensì, no, è chiaro, bensì... Esatto, bensì... Scatta l'articolo 36, esatto. E tu devi difenderti per qualcosa che non hai la possibilità di difenderti, perché loro ti danno ad esempio delle compravendite fatte in anni precedenti, addirittura la prima nel 2006 pre-crisi. Ed ecco che diventi l'evasore sospetto, se non per dire conclamato. È esattamente uno dei casi attraverso cui si alimenta il nostro contenzioso. Io ringrazio Claudio Siciliotti, continuate su Radio 24, appuntamento come a domani.